tutta la fatigace al mesterage dell'uomo, le quelle de impinisa stomica e la sua gran veia gana mai a sé. Allora mi veri saber se gli è una differenza. Sì, mi veri saber se che il guadagna l'uomo che il dreva a giudici, vun che il cerca de fa i rob giust, confronta un canelo, un barnafus, un pistutù, vun che il viva de per niente. E veri saber anche che guadagna il ga un por Crist, infescià disperato, per una decis de rigatris. Mi veri saber, veri saber la che la roba chi. Mei vede ciare net, uti eug che gem, che bamblanà cul desideri. Mei ves visine in rob che t'avè, e no sempre, sugnar, ves cul cualari. Manca quest, ma sono in cort, alle fiatra e via. Perché? La sentuc se che l'è un uomo sbassa il crapon davanti a quel più se forte del che in sti quater di sta vita legge che non come un inverna capasundin che un quei vun che le buon dedin se che il buon vegna che mi faghi che non fagum. E ti, me cara mis, ti che ti amaste vicino, che ti amaste, ti sei bonde consulam, ti sei bonde consulam. Forse, me i ves considera giusto, onest. Forse questa è il piacere più se grande. Sempre al libero il dis, mei il di della morte che nas, mei la ca in duca sa piange che quella in duca sa leger, perché la sentus la fin che fem, e pensa che su il fa nient'alter che ben, mei al dolor che vesa leger. Chirocchi, che ho pena di. I disegni sapienti, quei che hanno studiato, ma che è quei cose che va ben no. È il cuore di un uomo che dà giudice, le come quella che ha in du che è morto un quei venuto. È il cuore di Luc. Le come la fera di bue. Mei daga tra l'osservazione che il tafalon giudicius, che scultai fantasi d'un brubru. La sabui l'allegria di lui. Tutti i rocchi pena di, gli andi sapienti, quei che hanno scritti liber. Ma, scusemi, per me, anche questa è la vanità che la serve a niente. E allora, se te lo ripeto, una volta levo me che adesso, se che serva, tante faccia pari alla lingua, vega il giudizio di rock e fem, la ragione è un qualcosa di più di viv, le quest che na serva, perché l'on che il viva con giudizio se mette in berta da ne, che si rigidisse no, guarda quel che il fa il Signore. Chi l'è che il pedri sa quel che lui la fai a stort? E allora, quando i robban ben sta leger, la sa stai liber, quel che andi liber. Quando marca mal, tenia benamente. Al destin lavor si fa vun e l'alter. Chi l'è che dice al destin, chi l'è che dice al Signor, l'enci in del di, della mia vanità, ho visto proprio due cose. Ho visto due cose. L'uomo giusto, l'uomo giovane, morì. Vive, scampace in danno, quei gran mel tossic. E le mei che ti capisce bene a chi lo chi. E le mei che mi capisce bene. E pensando bene mi dice che l'onkel vive con giudizi, lui le sciur, desvol più se forte quei che guerna. All'oggi però, all'oggi, anche l'uomo giusto intanto il fa del bene, al più da fare qualcosa di sbagliare, e allora mi dici, da notra ai ro che ti dice Andrè, a quei che ti parla in Adrè. Anche a te, e il tuo cuore la sa, mille volte parla mal di alter. Sì, io, mi, ho pensato, tutti chi rocchi, e ho dici, mi allora veri ves giusto, veri vivo con giudici. Ma come le lontana sente quel giusto? Come riesce a capire la stra giusta, quella che l'è da quella sbagliata? Come fu Samuel? Chi l'è che me la dice? Come pudorò rivac? Mi, che sono un porpirla. Come fu capirò? Come fu capì lo che sbagli e lo che l'è la stra giusta? Come fu aver scontenti nella vita? E allora? Ma su misa il camo cugnus, a ravanare, rugà, per sapere perché di roba, il perché di roba, e ho capito che la gramità, la cattiveria, la verdì, comportas come un barlafus, un look. Ta vedet, su rivà capì qua, con insieme tutti i rob, per dent, cercà di trovare la ragione. Sì, mi, ho trovà. Manca questo, ma serva poco e niente. Perché chi l'è che il cugnus ha la spiegazione di rob? L'uomo al più da metti in char tu quel che il ver. Alga la forza di vince al gram che viene del cœur. Per tutti i rob è vera che il suo tempo. E il mal che il fa un uomo sta sicuro che prima o dopo da tu che le pagal. Ma lui, sa minga quanti disgrassi che burleranno addosso, nessuno la sa, perché nessuno è padrone del suo fià, e sci che il poda tenisse den, anche se il tempo al passa, e nessuno è padrone della sua morte, nessuno la scamparà. E io ho visto questo, il rob fai chi, su dal su, quell'uomo so medesi indagni, al suo fega un altro om. E ho visto quei più se gran muricchietti del su let, che invece tanti di quei unes, buon bel pan, me amici, ne andai via, che di su si ricorda più. Ma anche questo, ta veda ben, ha le tuffia tra i via. E allora mi udì, perché non manco una punizione. E sì, che la devi. Per questo è lo score. Tanti volte avete certi rob al briso della veglia di vendicarsi. Perché il peccatore, anche se alzita a favore una pesce che l'altra, giuri, la fa sempre franca. Due smassal su fio, a scampa cent'anni, al trova sempre una. E che. E. Ma mi dici. Conten quei che dà rispetto di se stessi del Signore, perché esci almeno in sempre in sua presenza, in presenza di se stessi. Sì, non è una delusione grande, che di gente giusta, che ha sempre fai del ben, che gatuca il destino che dovrebbe aver di quei più se gran, e che è quei gran che gana il destino di quei giusti, che la fanno sempre franca. O per un motivo o per un altro. Per questo mi si ti di che le mie l'allegria, fin di cunt. Perché l'onkel ga nessun'altra maniera per best content che faccia Dave e Stalegger, al deve fa quest. Perché alter roba il però conosce. Al deve limitas. Se no c'è pada l'onipotenza da fare. Sta quiet. Sta una questa. La sia e la sua compagnia. In sti quater di che il signor al dade vivi in d'un mon fai da quella maniera che. E quando va sul messo in seri a cugnus tutto il truscià al cascias al disperas che chi fem sulla terra che di e no l'uomo al trebula allora ulimà per ben tu quel che il signor la fai le vera ma la ragione di tu quel che venga fai mi la su propri no e con me nessun altro. E questa qui è una gran pena. Con tu quel che tribulum e cerco un spiegazione, nessun la possa vela più se lunga. E allora mi dice questo. Né amor né odio. L'uomo al sa un bel niente, un fix sec, in tu sbalde fa bui. Tu quel che gem con quel che gem, con quel che fem, tu scos le vanità, tu scos le fia tra i via. A che domani un destin, vin sul, per tu, quel giusto e quel gram. E le quest che non capisco no. Questa è il mal, al medesim destin, che tu catuc, l'el cœur dell'om al nostro mal. Burdega, vunge. De tutti i malan del mondo. La sani vive che grande crepa. I morti, al contrario, san più niente. Che più niente per lur. Nessun guadagna, amor, cattiveria, invidi, tu quel che in vita gheve alle bella che finì. De tu quel che il farà in che, che mi farò in che, duman, fra un anno, in di secolo, che resterà più niente. Vado. Va, e remuga il tuo sangue, la tua mica de pan. Bevo un bicer de vin, bevo un pecker de prim matin, e fa alcuna contentessa de quel che il sa de sape un bel niente. Perché il Signor l'ha già vist, al ga già mo piaciù quel che ta fe, al Signor ta già mo cugnusù. Vestisse ben, lustresi scar. Cerca de ves a leger, metesi in cu, curon de fior. God la vita, con la femmina che te cerni, quella che la te pias, quella tua mie, se ta galè. E quest per tu ci di della vita che pres la pasa. Che sia questa il tuo destin, in della pena che ta deva, fa te, su tal su. Tu quel che ta treve de fa, fall e svelt. Parla minga di per niente. Fai rob. Fintan che ta se buon. Fintan che ta se buon. E però, anche qui, ho visto che tanti volte la corsa allenò per quei svelti. Nella guerra per i forti. Nel pan per quei che ingiusti. Nei danè per quei che in bonde truai. La fortuna al cu, come non diso, per quel che se la merite. Al problema lo duma questo. Sentici in mando una combinazione. L'om, al cognusa no la sua ora. Come un carpen, ciapadenti in del tremac, al passarin branca da un sastira d'un fie. Men che se l'aspetta, i disgrassi gavanados. Tamor questo, tamor l'altro. Di più questo, di più niente, in un attimo, in un buff di vento. Devono più in TV, ascolta questa. Era un paesotto che riceveva ad andare sott'acqua. Al fine va più di più, ti disperà, se ben più se che fa. Allora arriva un uomo di giudizio. al Trusce, al Desp, al Giunto Insema, alla fin fin la trova la maniera per salvare il paese. Sì. Vorrei sapere come. Se la ricordo più nessuno. E me la ricordi anche a me. E nessuno si ricorda più che Cristo leva quelli. Le rivà, la fai su ro, la ciapalendai. Ventuc. La su ricord come brindei. Che pianse l'esfer. E mi disi, le me il giudici che la forza, sicuro. E occio, che le sei un sbali, vien sul, per distruggerci speranza. Al Cairo, al Bigatin, al Famarci il Pum, anche a quel Pisedulce, la quinta più sono una pirlada che il giudice, l'onore, i rof fai bene. E poi che anche i rof fai stort da quei che una guerna, barlafus, baluba, pisquan, vengono purta in alti e tassi a trova sempre lì, quei che in bonde fa, quei svel, quei che gano al cu, seten, cutel cu per terra. O visser vidur, andà a cavallo e princip camminà per biut. Gaver picala al fer per cudal, per faga al fil. Se le se no, prevega mu, per riese gindirò gaver drual giudici. Al cu. I parol quei giust dan sempre un guadagno, ma un urluc. Dunque il sutta slapetade per niente, e il slapetade sempre lì, e mi su quel che, mi su quel che, e viene, e da sempre, sta sicuro che il mena sempre rogna. Quanche il comincia a fandà la sua linguascia, tal seggia mu che l'è una bestiata, e alla fine del discorso, tenia voi anche de dag. Ma sto sa tratenia, perché... Guai a ti, paese, che per capta che un porfio e quei che comanda fa nient'altro che pacià e bev e rit. Salute a ti, paese, che ti sei manna di un liber, liber, che mangia in quel tanque le sei per viv. Quel che te mis in la terra, che te piantà, sta sicur, al t'avegni in tre. De quest mi son sicur. Fal ben, che se sa mai quel che il peda succede. Si niuli in sgiuffi, pien d'acqua, vegli al te che il pieva. Se vegna giù una pubia, là indu che l'endà in terra, sicur che la marcissa. Quel che spetta il vent, al ven giusto, e intanto al fa niente. Senta, aspetti un momento giusto. Al sumena mai. E quel che il suta all'umai niul, al cata su un bel niente. Come ta fe sape, a sapè che stracca il ciapa spirit quando va in scossa una donna. Una donna che l'aspetta un fiore. Come tappeto cugnus, tu quel che il Signore al fa, al destino quel che non diso. Comincia a lavorare la mattina, allora, fino alla sera rimane drevi, drevi ben, perché un mestè bisogna, pur fal, ma fal ben. Dulsa, meluga, le la luce, a ioce che capias vede il su. E allora che il sudì, l'om, si goda proprio tuce. Quei pochi mesi tanti che gadanno una gran pena. Cara al me amis, tu quel che succeda, le vanità e fia trai via. Sta leger allora, sta leger nan, già mu che ta seviscur e giuin, già mu che ta gera giuinessa, che il tuo cuore della sua gioventù sia sempre contento, va, Va cadrei e mila sentè del cœur, giuga divertes, cu del desideri, che te gen di oggi, che te gen del sangue, fai rob, e che per tu quel che dita farei al Signor, al te chiamare in giudici, cascia via il magon, via i dispiaceri, i dolori, perché la gioventù e i cavei neger da matrà, e nient'altro che un buff, passa in prest. Intanto che ti siamo giunti, ricordes di quel che la ti dai la vita. Sì, Nan, prima che venga l'inverno, che le gram, e Ian, quanche da disare, ma pias più fal, che trevi più gust. Sì, prima che il su e la luna si inurbissen, la luce e i stei vengono scur, e i niul, dopo che le piove, tornaran per pieve mu. Quando i tuman saranno bon più de strange, e i pesca pisceranno in terra, e i quaterdenti che da avrei in bocca saranno a strade mastegà, e tu bei finester che avranno più voglia di dervi sulla stra, e sci che anche i laver. Da tegnare sarà, e la sera allora la quarcerà tutti voi, sempre più sedevole la scinguetà di passarin, che ti sentare più. Quanta avrei paura fino della tua ombra, di fantasma che veniran cercat, e piant, i bei pian che cascevi in tu l'ani pian del tuo giardin, saran biut. E il can avrà la cua in mezzo ai gam, chi in mezzo ai gam, neanche una foglia che la sapeva. Perché allora, l'om ridem, l'om le drendà la ca eterna, e le gius che indaga, sì, prima che la corda la sa sgeta, strepà, che il fuoco sa smorsa, tutto il vin trai per terra, come alla terra num tornarem per vescendere terra dumà, in sci che l'anima finalmente in scossa ti, Pader Signor, è vanità di vanità, sì, mi su di, che le tuffiatri.